cartellone di Elisabetta Fiorito. In un angolo provo a resistere, io per lei salterei ogni ostacolo pur di raggiungerla. Volere così in questa notte limpida, potrei planare piano senza più segreti. Buongiorno, buongiorno. Quelli che sentite cantare sono un po' dei protagonisti che ormai sono diventati come i nostri vicini di casa, perché hanno rappresentato un po' quello che era il cinema italiano, la commedia anni 50. E in particolare quello che cantava era Antonello Angiolillo, che interpreta Maurizio Arena nel famoso film degli anni 50, Poveri ma belli, dove c'era Giovanna, Amy Bergamo e Michele Canfora, che fa la parte di Renato Salvatori. Buongiorno Antonello. Ciao, buongiorno. Allora, una commedia che è rimasta poi dentro di noi. Che cosa succede sul palcoscenico, visto che è stata anche tramutata in musical con musiche liriche di Gianni Togne? Ma fondamentalmente si sono aggiunte le musiche, come giustamente dici tu, alla storia degli anni 50 del film di Dino Risi, perché la storia è esattamente quella, ci sono solo piccole varianti drammaturgiche scelte perché si sta in teatro e quindi c'è bisogno di adattarlo alla scena. C'è un piccolo ruolo che nel film era veramente piccolo piccolo, quasi inesistente, che qui ha un ruolo drammaturgico importante, è quello di Leonietto del Sarto, che ha una delle più belle canzoni dello spettacolo, interpretato da Maurizio Semeraro. E per il resto la storia è quella, sono questi due ragazzotti romani che vedono arrivare questa Giovanna da Milano e fa perdere la testa un po' a tutti e cominciano a corteggiarla. Lei ha un ex fidanzato che torna, si rifà vivo dopo tanto tempo, e le due sorelline dei due fratelli, dei due amici, sono innamorate dei rispettivi fratelli, quindi c'è un po' un intreccio d'amore molto pulito. Insomma, un po' il messaggio dello spettacolo è quello di un amore che può andare bene in qualunque epoca, non è legato solo agli anni 50. E voi siete in scena dal 14 fino al 17 gennaio, cioè fino a domenica, al Teatro degli Arciboldi a Milano. Ecco, io mi ricordo Renato Salvatori e Maurizio Arena che avevano questi splendidi vestiti a scacchi un po' ridicoli. Voi che tipo di vestiti avete in scena? Allora, noi abbiamo dei vestiti di Giovanni Ciacci, che ha fatto una scelta di vestiti bellissimi, sono tantissimi cambi di costume, molto colorati, a quadri di colore, però diciamo che io e Michele abbiamo a turno a volte un po' i vestiti come quelli loro. Insomma, io a un certo punto ho una giacca, non dico improponibile, ma insomma non è proprio fantastica, volutamente, insomma, di una scelta di un po' kitsch di questo Salvatore, che pensa di essere un gran figo, ma in realtà poi si veste con cose belle ma non esattamente adatte a lui. Oppure però abbiamo dei bellissimi anche completi a righe fantastici, quindi sono veramente belli, un po' da gangster col cappello, e quindi spaziamo da una parte all'altra. Poi, lavorando in una chiatta sul fiume, uno è cameriere, l'altro io bagnino, abbiamo anche vestiti da, non da bagno, ma insomma pantaloni e una maglietta a righe strana, quindi insomma richiamiamo un po' anche l'epoca del mare, oddio del mare no, del fiume, del fiume. Si faceva ancora il bagno. Io questo mi ricordo da racconti familiari, che veramente si faceva il bagno nel Tevere. E poi ricordiamo anche proprio il film, perché a un certo punto loro vanno allo stabilimento, ma non vanno ad Ostia, vanno allo stabilimento sul Tevere e si tuffano, no? Perché è estate e il Tevere allora era biondo ma era poco inquinato, adesso è biondo e inquinato, anzi verdino. Allora Antonello, in bocca al lupo, visto che andate in scena al Teatro degli Arciboldi. Ricordiamo Poveri ma belli, il musical, un modo per ridere ancora di noi e per ridere con la commedia anni 50, dal 14 al 17 gennaio a Milano. Ricordalo bene, E dagli anni 50 italiani passiamo agli anni 50 americani. Stiamo sempre parlando di musical o di film che poi sono invece in scena in questo momento, e soprattutto il 12 e il 13 gennaio al Teatro Bergamo Kreberg. Buongiorno a Mirko Ranù, il nuovo Danny di Grease sulle scene. Buongiorno a voi. Allora, che cosa vuol dire confrontarsi con John Travolta? È un grandissimo onore, anche una grandissima responsabilità, perché comunque oltre al ruolo di John Travolta, insomma, nel film del 78, poi in Italia è stato interpretato da Gian Piero Ingrassia e a seguire da altri 7-8 interpreti, quindi siamo al 12° anno e devo confrontarmi con una serie di colleghi molto molto bravi. Si balla, si canta in italiano, ma la gente però accetta questa traduzione, malgrado siamo abituati al film con John Travolta, Olivia Newton-John, dove tutte le canzoni erano rigidamente in inglese? Sì, sì, anzi, a fine spettacolo, quando parte il medley finale, ormai la gente le canzoni le sa già a memoria, quindi interagisce con noi, canta e balla insieme. Canta e balla insieme. Quante ore di lavoro, di preparazione ci sono per un attore? Perché bisogna saper cantare, ballare, recitare, insomma, tantissimo. Le ore di preparazione sono tante, troppe. Facciamo tantissime prove ogni giorno, ci sono sempre nuove note di regia, anche per quanto riguarda la musica, ogni giorno c'è qualcosa da imparare. Ogni giorno c'è qualcosa da imparare. Qual è il momento più bello per chi interpreta Danny Zuko? Ma il momento più bello per Danny Zuko è quando sta per entrare in scena, perché ha il cuore in gola praticamente, e appena attacca la musica è qualcosa di inspiegabile, ma ogni sera veramente. Ogni sera? Ma nella vita reale un Danny Zuko sceglierebbe una come Olivia Newton-John tutta casa e chiesa? Oggi come oggi? Sì, secondo me sì, perché in realtà... E le ragazze come Olivia Newton-John, secondo me, non si trovano più, sono delle perle rare, quindi secondo me la sceglierebbe. Ho capito, noi per fortuna quelli come Danny Zuko non li vogliamo più, ma comunque erano anche molto divertenti. Mirko Ranù, nel nuovo Danny, il nuovo Danny di Grease, ricordiamo, compagnia della Rancia, siete il 12 e il 13 gennaio al Teatro Bergamo, poi... Poi andremo alla Spezia, Novara, Firenze, a seguire tante altre date. Si può consultare un vostro sito? Certo, cioè, tutte le date sono aggiornate sul sito ufficiale di Grease, e saremo a Roma dal 16 al 28 febbraio e a Milano dal 16 al 28 marzo all'Allianz. E allora vi verremo a vedere, poi vi giudicheremo, assolutamente no, vi verremo a vedere per divertirci e per far divertire tutte le famiglie, perché ricordiamo che Grease è un musical dove bisogna portare anche i bambini. Assolutamente. Era estate fuori città, era estate un attimo fa, e c'era lei, la pazza di me. Cartellone. Una volta però ci ho provato a dirti qualcosa. Sì, una volta che stavamo davanti alla scuola, prima d'entrare. Te che di solito stavi sempre in mezzo a amici tuoi, a cazzeggiare, qua mattina invece te ne stavi a studiare. E che ne so, magari ci avevi un'interrogazione, un compito in classe. Beh, stavi lì da solo. Io mi sono fatta coraggio e mi sono detta, Agira, o gli parli mo' oppure sei proprio una stronza. Te sono venuta vicino e t'ho chiamato per nome. Ma no, Will, no, questo strano nome ti chiamavano tutti. A me mi piaceva il nome tuo vero, William, che avevo scoperto guardando sul foglio di quelli che avevano fatto la recita. C'era proprio scritto, il principe William, quello era il nome tuo, quello vero. Beh, io non ti volevo chiamare come tutti gli altri, speravo che te, che te capivi che sta cosa stava a significare qualcosa. Insomma, me volevo dare importanza, me volevo far notare. Ah, mi sono avvicinata, tutta emozionata, e ti ho detto, a William! Ma te Marco, te sei girato, sono rimasta così, come una cretina, e poi me ne sono andata. Guarda, da quel giorno te volevo odiare, ma mica ci riuscivo. Ti volevo bene lo stesso. Anzi, mi ricordo che la sera prima di dormire ripetevo un sacco di volte il nome tuo. William. No, non eri come tutti gli altri per me. Pensavo veramente che tu c'avevi qualcosa di speciale. A cominciare dal nome tuo, che era speciale. Buongiorno Federica Berne, ci è venuta a trovare di nuovo una vecchia amica di Radio 24, perché è in scena al Teatro Sala 1 di Roma con Le Mattine 10 alle 4, scritto e diretto da Luca De Bei, e parla praticamente a Roma ogni mattina alla stessa ora dell'alba. Due ragazzi e una ragazza aspettano l'autobus che dalla periferia li porterà sui luoghi di lavoro. Federica, ma tu non sei romana però? No, io non sono romana, però abito qui a Roma da 17 anni, quindi sono, diciamo, ho affrontato questo ruolo in cui c'è l'accento romano, in cui c'è il linguaggio della borgata, e insomma, quindi dà una certa vivacità a questo testo scritto da Luca De Bei. Tu sei abbastanza abituata, perché poi reciti anche delle parti in lingua inglese per Rai Educational. Sì, esatto, quindi insomma, diciamo, è un po' una mia peculiarità di attrice questa di cambiare, di avere molto orecchio. Insomma, sono fortunata da questo punto di vista. Sei fortunata da questo punto di vista, quindi sei credibile come romana, perché fino al 24 gennaio questo spettacolo va in scena. Ecco, la realtà di questi ragazzi, parliamo di questo spettacolo, perché è uno spettacolo di denuncia in realtà. Certo, sì, questo è una storia d'amore, oltre a essere uno spettacolo di denuncia, perché appunto questi tre ragazzi, di amore e di amicizia, perché tra questi tre ragazzi, tra il ragazzo italiano e la ragazza che fa le pulizie, nasce e sboccia una storia d'amore, però diciamo che la realtà in cui sboccia è quello del lavoro nero, in cui loro appunto vanno a lavorare la mattina prestissimo, fanno dei lavori precari, e quell'altro ragazzo rumeno che si è già fatto male in un cantiere, non sa se andare all'ospedale oppure no, quindi insomma è un po' una realtà difficile per loro, un mondo ostile. Denunciamo appunto le morti bianche, il fatto che in questo paese tutti i giorni 3-4 persone al giorno muoiono per 360 giorni all'anno, per cui insomma è un po' difficile, ecco. Tu generalmente interpreti un po' questi ruoli, perché quando sei venuta per la Quota Rosa l'anno scorso ci hai portato la storia di una prostituta rumena scritta da Claudio Pallottino. Adesso ti immedesimi in questa ragazza che fa le pulizie in ufficio e piccole industrie per conto di una ditta che riceve subappalti. Insomma, esatto. Il teatro civile è una cosa che ti appartiene molto? Sì, mi appartiene molto, soprattutto sento che la gente ne ha proprio bisogno, nel senso che noi sentiamo la risposta delle persone che ci ringraziano, che sono molto emozionate perché hanno questa occasione di venire a teatro, di vedere qualche cosa che può essere sia divertente, sia fonte di pensiero, di discussione, di elaborazione mentale. Quindi è bello, insomma, fare questo tipo di teatro che abbia un impegno. Che abbia un impegno molto importante. Allora ricordiamo Le Mattine 10 alle 4, scritto e diretto da Luca De Bei con Federica Bern, Riccardo Bocci e Alessandro Casula, alla Teatro Sala 1 di Roma fino al 24 gennaio. Ciao Federica! Grazie mille! Attenzione! Parla Leningrado! Parla la città di Lienin! Il Comitato di Leningrado e la Direzione del Settore Artistico indicano la registrazione dei musicisti di qualsiasi specializzazione residenti in città per l'integrazione della Civica Orchestra Sinfonica. La registrazione avrà inizio domani nei locali del Comitato Radiofonico. Si invitano tutti i musicisti a presentarsi. Ascolta, parla Leningrado suona. Insomma, che cosa è successo nel 1941 a Leningrado? Pochi lo sanno, ma lo sa Sergio Ferrentino, che ha scritto e diretto questo spettacolo che andrà in scena l'11 e il 12 gennaio al Teatro Litta di Milano. Buongiorno Sergio. Buongiorno a voi. Buongiorno allora, a voi. Tu parti da un dato storico e anche da un dato radiofonico, ci spiegavi poc'anzi fuori onda. Sì, è un dato radiofonico perché l'assedio di Leningrado, che è durato 900 giorni, ormai è storia, ma è storia anche il fatto che è stato cementato da Radio Leningrado, da una radio che in qualche modo teneva viva le speranze, alimentava qualsiasi forma di speranza nei confronti dei cittadini, ma soprattutto anche dei militari che erano intorno a Leningrado. E quindi i messaggi che arrivavano da questa radio erano importanti. Pensate che dentro c'era Anna Akhmatova, c'era Olga Bergolt, ma c'era lo stesso Shostakovich che facevano degli appelli da questa radio. Cioè, c'erano i poeti, musicisti, no? Grandi musicisti, tra le altre cose. E Shostakovich dedicò a questo assedio la settima di Shostakovich, come tutti quanti noi che conosciamo, la settima sinfonia. Ed ecco che fino a qui ancora non c'è niente di particolare, ma è tranne il fatto che in questi 900 giorni sono morti un milione di persone, di cui 750.000 sono morte di fame, quindi in attesa proprio di morire, perché non c'era niente da mangiare, quello che c'era era stato, come dire, usato e abusato, con un inverno che era il più freddo degli ultimi 50 anni, quindi si andava dai 30, 35, 40 sotto zero. Ecco che era diventato un problema anche muoversi. Eppure la radio ha deciso di realizzare questa impresa, cioè quella di rifare la settima sinfonia di Shostakovich. Pensate, tanto per capirci, è una sedia, è un cerchio d'acciaio. Gli spartiti sono arrivati dal cielo, sono stati paracadutati dal cielo e poi sono stati riscritti. Pensate, i musicisti erano tutti nelle trincee, a scavare le trincee, e quindi in questo caso ecco che di colpo questi musicisti venivano richiamati, e c'erano alcuni di loro che per esempio non toglievano i vestiti da 6 mesi, non suonavano uno strumento da 7 mesi, perché erano lì in trincea a scavare e a sparare. Ecco, questo era un po' la situazione. Ed ecco che però il 9 agosto del 42 la radio riuscì a mettere insieme 116 musicisti per realizzare questa settima sinfonia. Ti do un dato, quella sera vennero bombardate per tutti i 300 chilometri di trincea intorno a Leningrado. Perché? Perché quella sera Leningrado amplificava l'orchestra, no? E quindi la settima, verso le trincee tedesche. Allora, riascoltiamo un brano dello spettacolo che, ricordiamo, va in scena l'11 e il 12 gennaio al Teatro Litta, scritto e diretto da Sergio Ferrentino, un modo anche per scoprire questo assedio terribile che ci ha descritto Sergio e per ricordare un momento storico così importante, ma anche, come ci hai detto tu, un momento importantissimo anche per la vita culturale di un paese, la vita musicale di un paese. Sentiamo. Attenzione, parla Leningrado. Dobbiamo insegnare al popolo nel più breve tempo possibile i principali e più importanti metodi di lotta, come sparare, lanciare bombe a mano, combattere per le strade, ebbene, scavare trincee. La sfida è accettata. Si avvicinano feroci battaglie. Ricordiamo ai fascisti tedeschi, finché sono ancora vivi, dobbiamo fare appello a tutte le forze che abbiamo. Controbattere ogni colpo con impeto doppio e scavare la tomba del fascismo davanti a Leningrado. Il nazifascismo vuole annientare il tuo destino, compagno. Vuole calpestare il tuo corpo, calpestare la tua anima, distruggere la tua cultura, le tue tradizioni, il tuo amore. Possiamo vincere. Ascolta, parla Leningrado, Leningrado suona a Teatro Litta 11 e 12 gennaio. Ciao Sergio. Grazie a voi. Per quasi 7 mesi, fino al 27 giugno, Brescia si trasforma in una delle capitali mondiali dell'archeologia con la mostra Inca. Al Museo di Santa Giulia, con oltre 270 opere provenienti dal Perù, è possibile ripercorrere l'intera storia delle civiltà dell'oro. La mostra Inca è la prima parte di un percorso espositivo voluto come omaggio alla civiltà dell'America Latina e dei Caraibi. Il curatore della mostra, Giuseppe Orefici, al microfono della nostra Adriana Fracchia. È una mostra che darà delle forti emozioni, diciamo, perché veramente è una prima in assoluto in Italia, soprattutto per quanto riguarda la quantità di materiale, la quantità di oro soprattutto. Oro proveniente anche dalle ultime grandi scoperte nel territorio peruviano. Quindi anche questo sarà un altro motivo di interesse, di ricerca per chi la visita. Ovviamente il fatto di trovarsi di fronte a tutto questo materiale di colpo ci porta proprio a poter sognare anche un rapporto diverso con culture che sono meno conosciute per noi. Naturalmente queste culture sono espresse in modo molto particolare, soprattutto per quanto riguarda il concetto dell'oro, che non è un oro per poter esprimere il proprio potere, ma è un oro per avvicinarsi alle divinità, quindi da utilizzare durante le cerimonie e nel rapporto con il sacro. Qualche pezzo forte di questa mostra che non è mai stato visto qua? Il materiale di Sipan, per esempio, è una cosa assolutamente eccezionale, non è mai uscito dal Perù e negli ultimi 10 anni, e le mostre che sono state fatte in questo periodo sono state fatte con delle copie, quindi poter avere degli originali qui è un fatto particolarmente importante. Se poi inoltre verso febbraio o marzo potremo avere anche una novità in assoluto, cioè una tomba di una sacerdotessa bambina che è venuta alla luce nel mese di ottobre di quest'anno, sarà forse anche un completamento di ciò che abbiamo già in questo momento a Brescia. Qual è il fascino che suscita ancora questa civiltà, questa cultura su di noi? Soprattutto il problema maggiore io credo che sia quello di poter avere un rapporto con questi materiali che sono il frutto di un'esperienza, di un'espressione matura, consapevole, soprattutto nel rapporto con la natura, un rapporto armonico con la natura e con quello che è stato il mondo circostante per le culture precolombiane. Tra l'altro una mostra che durerà a lungo, perché fino a giugno. Fino a giugno, esattamente, quindi c'è tempo per poterla visitare, però ecco che prenotino in tempo utile, perché le prenotazioni superano già le 80.000 unità per il momento, quindi se no diventa difficile poter avere un giorno per poterlo visitare. Quindi insomma una mostra che rischia di fare dei record. Credo di sì, credo che li farà senz'altro. Cartellone. Fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freaking show. Take a look at guy. Oh man, wonder if you'll ever know. He's in the best-selling show. Is there life? C'è vita su Marte, chiedeva il magnifico David Bowie in questa versione live che abbiamo trovato nell'archivio di Radio 24, ma soprattutto, che cos'è la scienza? È una cosa tra possibile e immaginario? Beh, questo è quello che dice Vittorio Bo, organizzatore di Festival delle Scienze, Magie, Tecnologie e Ricerca Scientifica tra possibile e immaginario. E si tiene questa jam session tra immaginario e scienza da mercoledì 13 a domenica 17 all'Auditorium Parco della Musica. Buongiorno Vittorio Bo. Buongiorno. Allora, lei esattamente che cosa ha messo su? Ha messo su la possibilità per anche persone normali come noi di capire un pochino che cosa sta succedendo nel mondo della scienza? Ma assolutamente sì, come è stato nelle passate edizioni, questa è la quinta, quando abbiamo indagato le frontiere della Terra, i limiti delle risorse nell'edizione di Coscienza Globale, oppure quella dello scorso anno sui mondi attraverso l'astronomia, celebrando Galileo. La tecnologia è figlia della scienza, si dice, ma in qualche modo si è un po' staccata, no? Si è resa autonoma, e noi abbiamo cercato di disegnare un percorso per capire che cosa rappresenta la tecnologia, la tecnica prima, la tecnologia oggi, per noi quali sono i limiti che dobbiamo in qualche modo conoscere per riuscire a essere anche più partecipi di determinate scelte fondamentali, che sono quelli pratici, per esempio sull'utilizzo di determinate tecnologie importantissime come quella dell'energia nucleare, oppure ancora di più guardando al futuro sulla robotica, no? Oggi si parla per esempio di roboetica o di cyberetica, e sono alcuni dei temi che noi trattiamo in questo nostro carrellata nella tecnologia, appunto cercando anche di non dare un senso di distanza ma invece di vicinanza, no? Tra possibile e immaginario. Cioè, per esempio, un grande economista, tecnologo, ingegnere americano di origine irlandese che si chiama Brian Arthur, che verrà a parlare proprio della natura della tecnologia, cioè come la natura è nata e come evolve, e in qualche modo la sentiremo molto più vicina, verrà anche confrontata con la teoria evolutiva della tecnologia. Non è proprio esattamente come nel caso dei geni e del DNA, ma certamente lui sostiene che la tecnologia è figlia in qualche modo delle produzioni che la precedono attraverso delle segmentazioni e degli accumuli di conoscenza all'interno dei sistemi stessi della tecnologia. Quindi una sorta di si riproduce, cioè c'è un'evoluzione anche del materiale tecnologico, questo Darwin applicato alla tecnologia. Poi ho visto che all'Auditorium Parco della Musica di Roma, specifichiamo che a Roma, scusate la dimenticanza, anche c'è Margherita Hack che parlerà del nero delle stelle, e questa è una sua poi battaglia, no? In cui lei parla sempre anche dell'energia oscura dell'universo. Sì, questo è una grande... Il nero delle stelle è una prima italiana di un concerto che è organizzato dal Parco della Musica Contemporanea Ensemble, sono sei componenti, e Margherita Hack, che con la musica di Gérard Grillet, Le Noir de l'Étoile, ci racconta questo più che un limite, questa dimensione nuova, no? Attraverso anche i suoni delle stelle, i suoni dell'universo, quindi insomma una scoperta di un mondo che c'è più vicino di quanto noi non immaginiamo, e soprattutto che è affascinante conoscere, sentire, intuire, insomma. Poi c'è anche una sezione, e da qui la nostra canzone, il nostro ricordo di David Bowie, proprio con Living on Mars, vale a dire Marte la terra promessa, insomma sembra un po' Capricorn One, riusciremo a colonizzare il pianeta rosso? Beh, ad oggi sembrerebbe difficile vista la temperatura a cui dovremmo essere sottoposti e anche la composizione dell'atmosfera, che è molto sottile, però certamente se pensiamo che cos'era l'astronomia, l'astrofisica solo 20 anni fa, e l'impossibilità di riuscire ad avere e conoscere dei dati che oggi abbiamo in massa sterminata, e certamente è una cosa molto molto interessante. Chris McKay, che è lo scienziato della NASA che sta studiando tra i tanti Marte, ci dice che è un futuro quello in cui si potrà vivere su Marte, non così lontano come si potrebbe immaginare tra alcuni centinaia di anni. Lui dice no, molto molto più vicino. Allora ricordiamo, abbiamo sentito Vittorio Bo, direttore scientifico, da mercoledì 13 a domenica 17, il Festival delle Scienze è arrivato alla quinta edizione, tra possibile e immaginario, magie tecnologiche e ricerca scientifica, all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Nera che porta via la via, nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce, nera, nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte. Nera di mala sorte, che ammazza e passa oltre, nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, luna, nera di falde amare, che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento. E adesso ricordiamo un grandissimo artista, come avete sentito, Fabrizio De André, perché in vari luoghi, Milano, Monza, Sago, va in scena lo spettacolo Mille Gocce di Splendore, un vero e proprio festival dedicato al grande cantautore genovese. Emanuele Ronchi è l'organizzatore, iniziato ieri e finisce lunedì. Perché finisce lunedì? Innanzitutto buongiorno a tutti gli ascoltatori. Lunedì è il 11° anniversario della scomparsa di Faber, come io amo dire, in cui non se n'è andato, è solo andato a farsi un giro nei Verdi Pascoli, come cantava in una sua canzone. Il cantautore poi più amato anche dalle nuove generazioni, per quale motivo secondo te, Emanuele? Perché mischiava questa capacità musicale con questa capacità poetica? Ma sicuramente questo, sicuramente perché De André è riuscito, a differenza di molti altri cantautori stimabilissimi per carità, a rinnovarsi continuamente in tutta la sua purtroppo terminata carriera. Voglio solo a questo proposito ricordare che credo che il primo esempio di world music in Italia sia stato Creuso de Madi De André, tanto per dirne una, e poi le collaborazioni con Bubola, con Fossati, con Mauro Pagani, quindi anche la capacità di sapersi circondare di personaggi di altissimo spessore livello, sia da un punto di vista musicale che da un punto di vista del testo e della capacità di creare qualcosa di nuovo all'interno della canzone italiana. Nel festival suonano vari artisti e suonano le canzoni di De André, e questo festival si svolge in varie località, quindi insomma è molto variegata come situazione. Certo, non a caso noi nella nostra modesta l'abbiamo chiamato Piccolo Festival in omaggio a Fabrizio De André. Noi siamo una piccola associazione culturale di Milano che da anni fa il tributo De André. Ci siamo resi conto nel tempo che non si può rinchiudere tutto quello che gira intorno a De André. Teniamo presente che se uno va su siti tipo Via del Campo, faberdeandre.com, nella pagina band ce ne sono veramente centinaia. Credo che sia un caso assolutamente unico nella storia della musica italiana. L'abbiamo voluto chiamare Mille Gocce di Splendore prendendo a prestito una frase da Anime Salve, perché nello spirito molto di Andriano abbiamo voluto prendere il festival, non farlo in un luogo centrale della città, anche se all'interno del festival questo ci sarà, ma spargere queste Mille Gocce di Splendore in luoghi abbastanza inconsueti e periferici, quindi andiamo dal piccolo circolo culturale alle porte di Milano, al classico circolo, quello che noi chiamiamo dei vecchietti che giocano a carte, si bevono l'ombra di vino, giocano a bocce. Queste Gocce di Splendore abbiamo voluto spargerle un po' in tutto il coso, anche nella provincia di Monza peraltro. Qual è la frase della canzone che ti piace di più? Lo so che è difficile, però io ce l'ho, per esempio, ce l'ho sulla Guerra di Piero, quando lui dice parole troppo gelate per sciogliersi al sole, no? Stringevi tra le mani, stringevi un fucile, no? E qual è la tua invece frase che ti piace di più? Qual è la frase che ti piace di più? Mi viene in mente una, la prima che mi viene in mente, ce ne sono ovviamente a migliaia in tutta la produzione di Andreiana, che è bello che dove finiscono le mie dita deve in qualche modo cominciare una chitarra, che tratta da Amico Fragile, che è un pezzo straordinario, io credo. Quindi più sull'aspetto poetico, artistico, che non sull'aspetto politico di questo cantautore, che è molto molto variegato. Allora, ricordiamo Mille Gocce di Splendore. Siccome sono tantissimi gli appuntamenti e molti i gruppi, noi vi consigliamo, per saperne di più, di andare proprio sul sito www.millegoccedisplendore.it. Emanuele, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, volevo dire che all'interno del festival, sicuramente ricchissimo, c'è una serata molto particolare, che è quella di lunedì 11 gennaio, che oltre ad essere appunto l'anniversario, a differenza delle altre serate in cui suoneranno, diciamo, delle cover band, senza nulla voler togliere a questo, Marian La Buona Novella è un progetto originale di musicalità che ha commissionato al Mitteleuropa Ensemble Chamber Quartet questa riedizione, questa rivisitazione della Buona Novella di De André, quindi un album particolare, un album anche molto criticato quando uscì, un album che ha come caratteristica quello proprio di entrare profondamente in quella che io chiamo la religiosità laica di Fabrizio De André. Sarà l'Auditorium San Fedele a Milano, quindi un luogo prestigioso, e appunto è un progetto originale che sarà anche accompagnato alla musica da un artista visuale che seguirà la musica con questo gioco di sabbia lanciata e dipinta su una lavagna luminosa che verrà proiettata a grande schermo, quindi una cosa molto particolare e uno spettacolo originale che è al suo debutto. Mille Gocce di Splendore, festival dedicato a Fabrizio De André. Ombre de muri, muri de maine, donde ne veni, dove le canne, densi tu du vali, a se mostrani, e a netta n'appunto, cote lo agu. E a Montalas eu quero estou tio, o diabo em seu cego é fetoninho. Ne shortimo da uma pesci vai a se da odria, a fontana di cumbi tacca de pria. Stufi di andare a teatro? Stufi di prenotare il biglietto, staccare, vedervi con i vostri amici davanti al foyer? Beh, allora adesso il teatro viene anche a casa vostra con un progetto della compagnia Cuocolo Bosetti e con uno spettacolo scritto appositamente proprio da Renato Cuocolo, The Sandman. Buongiorno Renato, che cosa fate nelle province piemontesi? Che cosa succede? E da un mese fino alla fine di febbraio portiamo appunto questo nuovo spettacolo, The Sandman, e quindi andiamo a visitare, siamo stati praticamente in quasi tutte le città principali del Piemonte, grazie alla fondazione del circuito teatrale, e andiamo a visitare i vari spettatori che prenotano lo spettacolo per un numero massimo di 10 alla volta nelle loro case. E quindi c'è questa intrusione, questo strano pellegrinaggio teatrale che avviene al momento in Piemonte e poi più in là si sposterà fuori dall'Italia, perché la compagnia poi ha origine a Melbourne, una compagnia australiana, dove ritorneremo a marzo, gireremo poi un po' l'Europa con questo spettacolo. 15 euro a spettatore e voi arrivate in coppia e presentate questo spettacolo basato un po' sull'estraneità. Esatto, è un po' proprio sul tema principale, è proprio il tema della visita. Quindi dell'estraneo, della sua apparizione, diciamo, all'interno di quello che è familiare, quindi la propria casa. In effetti The Sandman, che nasce da questo racconto di Hoffman, deve molto, diciamo, della sua fama al saggio dedicatogli da Freud sul perturbante. Il perturbante è proprio quello che c'è di non addomesticabile nella domesticità ed è un tema portante del nostro teatro, da The Secret Room, Private Eye, spettacoli che hanno girato un po' il mondo e soprattutto anche in Italia sono stati presentati molte volte. The Secret Room è arrivato a 1400 repliche, ha superato. E diciamo che l'elemento del perturbante, per questo noi usiamo la casa, non è una sorta di artificio, ma proprio perché la casa diventa per noi una trappola per la realtà, ci permette di cambiare il nostro rapporto con lo spettatore, farlo uscire da quelle abitudini, metterlo in una situazione che poi diventa una situazione di ascolto. Compagnia Cuocolo Bosetti, ricordiamo, in giro nelle province piemontesi abbiamo sentito fino a fine febbraio The Sandman. Il teatro va a casa dello spettatore. Cartellone. Ah, c'è stata la regina Mab a letto con te. Regina Mab. E chi è? È la levatrice delle fate. È una streghina, più piccola della pietra dell'anello di un assessore comunale. E arriva al galoppo, sul naso di chi dorme, in un cocchio trainato da quisquilie. I raggi delle ruote sono lunghe zampe di grillo. E il mantice è fatto di ali di cavalletta. E questo è Romeo e Giulietta, anzi è Mercuzio che parla della regina Mab nel film di Zeffirelli. Insomma, la versione, quella seria di William Shakespeare, la regina Mab ci ha fatto sognare, ci ha terrorizzato per secoli e secoli. Ma come viene vista in una scuola della periferia di Roma? E la regina Mab ti è venuta a trovare, lei è quella fatta che ti fa sognare, è come pietra d'agata che ti porti al dito, entra come uno spillo nel tuo cervello vivo. Io è come il fumo che ti fa sognare le stelle, ma bello sei attento che siano proprio quelle nella testa degli amanti. Galoppo ogni notte ti fa sognare di avere tante cose. Siete qui, galoppa, galoppa. Sulle ginocchia dei politici ruffiani, che prima parla bene e poi si sporcano le mani. A terra sulle dita da avvocati e denotai, che sogna poche tasse dell'altri tanti guai. S'appoggia sulle labbra di tutte le donne belle, che sognano i baci ma fanno solo perle. Scesa qui, scesa, scesa. Dunque, il professore, nome? Sì, Alberto Bognanni. Invece Vanessa? Siddhartha Prestinari. Due personaggi abbastanza importanti per questa recita, diciamo così, uno Shakespeare a soggetto, potremmo dire. Sì. Il professore si ritrova in una scuola di periferia, alla periferia di Roma. Sì, in realtà il professore non è un professore, ma è un attore. Quindi l'autore di questa commedia ha tratto spunto dalla sua vita, nel senso che gli è successo anche a lui di andare in una scuola in autogestione e di dover, suo malgrado, fare un corso di teatro. E da questa esperienza è nata questa commedia, che in realtà non fa altro che riproporre Shakespeare, ma visto dalla parte degli adolescenti. Per cui Shakespeare c'è, non è una parodia di Shakespeare, ma Shakespeare viene raccontato però in una maniera nuova, cioè come lo vedono degli adolescenti di oggi, insomma, alla loro maniera. Vanessa è praticamente forse quella più irrequieta, un po' si fa le canne, fa però la parte della balia. Guarda, poi mi viene molto difficile fare questa parte, perché io sono, per esempio, una persona molto seria, molto composta, e Vanessa è sicuramente una, sì, un personaggio, un maschiaccio, una, un po' sui generis come personaggio, ed è, insomma, un po' irriverente, quindi anche lei prende forse insieme a quei personaggi che lo reinventano un po' il testo, no? E si appassiona. La cosa bella di questo spettacolo è appunto che, come diceva appunto Alberto prima, si ride, si scherza, però poi piano piano il pubblico entra nella dimensione della storia d'amore di Shakespeare. E infatti a un certo punto, poi soprattutto nel secondo atto, viene recitato Shakespeare, c'è Giulietta che è un po' emaciata, che nella storia della scuola è bulimica, anoressica. Esatto. E a quel punto il professore attore si limita a narrare la storia, a raccontare i raccordi tra una scena e l'altra, e invece i ragazzi, così un po' per magia, si appassionano, ma diventano anche dei bravi attori, perché diventano molto naturali, che poi è quello che a volte serve in Shakespeare e non viene utilizzato. Una naturalezza nei personaggi che quindi li rende più umani. Voi mettite, snudate la spada e siete uomini, creatori di ricordo del tuo corpo, maestro. I servi snudano le spade e si battono. Quello lo devi leggere. E che ne so io? T'ha detto 7 volte, l'ha detto. Ma te perché non ti fai i cazzi tua, per esempio? Ah, Serpico, mettete a sedere. Calmi, ragazzi. Calmi. Ma è possibile che litighiate per ogni cosa? Ma che è sta aggressività? Su, calma. Allora, ricominciamo da snudate la spada, però visto che ricominciamo, ci mettiamo un po' più di grinta, un po' più di passione. Mi scusi, Leandro, non dovrebbe sentirsi come un certo vibrato nella voce? Vibrato nella voce, grazie, andiamo, dai. Snudate la spada, siete uomini greci, ricordo il tuo corpo, maestro. Dividetevi, stolti che non siete, rinfonderate le vostre spade, non sapete quello che fate. No, scusate, ma che è sta lagna? Dico, ma prima di me che avete frequentato tutti un corso di ninna nanna giapponese? Ma che era una battuta? Me la dici? E Angeli, seppure lei ci metta più sentimento, su, lo capisco che fa il bidello, però ragazzi, ma questo è Shakespeare. Noi siamo sul palcoscenico del Teatro Italia qui a Roma, poi ci sarà una sorpresa, perché voi state preparando, Vanessa Siddhartha, state preparando un seguito che andrà al Teatro dei Servi dal 29 in poi, e questo seguito però non riguarderà più Shakespeare. No, questo seguito non riguarderà più Shakespeare, prendiamo un altro grande, insomma, capolavoro, e questi ragazzi si ritrovano qualche annetto dopo. Vuoi raccontarlo tu, che sei un po' l'artefice di questa cosa? No, fai tu. Il professore, è il professore che fa, li fa rincontrare. Sì, in questo caso è un vero sequel, tentiamo questo esperimento teatrale, un sequel, loro qualche anno dopo, i ragazzi sono cresciuti, il professore, l'attore ha cambiato mestiere, un po' disilluso dal mestiere d'attore, è diventato un agente immobiliare. Si rincontrano casualmente, nessuno di loro tranne uno ha scelto la via del teatro, però anche lì di nuovo si crea una combinazione magica, per cui devono, per salvare un teatro abbandonato di periferia, mettere in scena Cyrano de Bergerac, e quindi è un percorso al contrario. Mentre prima lui riesce a far avvicinare loro al teatro, in questo caso loro faranno avvicinare lui di nuovo al teatro, e smetterà di fare l'agente immobiliare, e poi si vedrà quello che succederà dal 26 gennaio al Teatro dei Servi. Allora, fino a domani, oggi e domani, abbiamo questo, come è il titolo esatto? Romeo e Giulietta paccavano, s'amavano e come? S'amavano e come, qui al Teatro Italia, invece dal 26 al Teatro dei Servi. Cyrano, dacci una mano, fino a quando? Dal 26 gennaio al 14 febbraio. E allora noi seguiremo anche il sequel, uno spettacolo che va bene anche per le scuole, per i ragazzi e per i giovani. Oh, benedetto pugnale, questo è il tuo fodero. Arrugginisci qui e lasciami morire. Ma è troppo tragica però. No, non può finire così. Poi l'ha detto te, professore. Noi possiamo fare quello che ci pare, basta che ci crediamo, no? Sì, slancio creativo. Fate come volete. Oh! Può essere che Giulietta sia rimasta incinta di Romeo. Allora, per amore del bambino che sta per nascere, decide di vivere. Mi sembra logico e plausibile. Sì. Ragazzi, ma Shakespeare si rivolterà nella tua... Ma che te frega? Ah, ma se non te va, ne sai qualcosa qua. Ah, professor, noi abbiamo deciso di far risorgere pure Romeo. No, Romeo no, è morto avvelenato. Chi l'ha detto? È ferito. Sì, ma uno col veleno si ferisce, è morto e basta. Sembra morto. Solo che poi frate Lorenzo c'aveva una pozione. Sì, un disintossicante, no? Che l'ha guarito. Romeo, bevi sta pozione, te farà risorgere. Lazzaro? Te farà risorgere come il sole. Oh, almeno questo. E adesso dal teatro in romanesco, come abbiamo sentito Romeo e Giulietta, passiamo al teatro in legnanese, o Vita Vita Straca. Buongiorno Enrico Dalceri, insomma uno spettacolo in dialetto. Buongiorno a tutti, sì, io sono Enrico Dalceri, faccio Mabiglia, la figlia di questi due praticamente, tra virgolette, ormai anziani, papà e mamma, che vivono in un cortile dell'Italia, ma perché vabbè, l'Italia è formata anche di cortili, anche dal nord al sud. Questa vita di cortili la rappresentiamo sul palco da più di 60 anni, anche quest'anno siamo a Milano con questo spettacolo O Vita Straca, che è un vecchio diciamo, titolo di Felice Musazzi, che è promotore di questa compagnia, riadattato ai giorni nostri dal regista Antonio Provasio. Fino al 7 febbraio al Teatro Ventaglio Smeraldo e poi andrete in giro in tournée in Lombardia. Ma vogliamo sentire un assaggio di questo spettacolo, tanto per capire che cosa fate in scena. Siete pronti? Sì! Ora, i legnanesi, dicevi, sono la compagnia dialettale lombarda più famosa d'Italia, ma esiste ancora un dialetto lombardo? Perché noi sappiamo che in alcune regioni, tipo il Lazio e la Lombardia, il dialetto un po' sta scomparendo. Sì, no, ti devo dire una cosa, sì, hai ragione. Sta scomparendo, però abbiamo notato che da più di 5 anni si stanno avvicinando molti ragazzi giovani, per cui probabile che un po' per curiosità, un po' per così fare un po' i spavaldi, eccetera, qualche parola cominciano a riutilizzarla. Per cui noi vediamo che parecchi ragazzi giovani stanno appunto avvicinandosi al dialetto. Ecco perché appunto abbiamo fatto, come avete sentito, questa canzone Legnatech in techno music, proprio per il nostro fans, il nostro forum che è pieno di fans che sono anche giovani. E per cui siamo ben felici che appunto questa tradizione, che sia dialetto lombardo, romanesco, napoletano, continui in Italia, perché l'Italia è formata anche di tanti dialetti e sono molto belli, ecco, non è un peccato dimenticarceli. Enrico, ti ho fatto questa domanda perché proprio oramai, no, in alcune regioni, come dicevamo, c'è la tendenza ad avere magari un accento, ma non proprio un dialetto. Magari i veneti sono stati più bravi a preservare il loro dialetto, loro continuano a parlare dialetto tra di loro. È vero. Noi romani e voi milanesi o legnanesi che siate, siete un po' meno, siamo stati un po' meno bravi. I napoletani ancora parlano molto il dialetto, no? Ci sono delle regioni in cui voi volete recuperare queste parole perdute. Esatto, infatti appunto c'è stata anche questa non polemica, però discussione del fatto di portare il dialetto nelle scuole o meno. Io dico una cosa, di sicuro non portare come una lezione il dialetto nella scuola, però fare qualche accenno, non so, con qualche cosa, un libro letto in dialetto, uno piccolo sketch in dialetto ogni tanto, che nelle scuole non farebbe male, secondo me, perché veramente è una tradizione che è un peccato perdere. Non lo so, io sarei promotore di questa cosa. Ecco, ma ci dai un'espressione tipica che noi possiamo utilizzare, magari non volgare ovviamente, che siamo in radio. Ma non siamo mai volgari. Magari un'espressione tipica quando, che ne so, arriva una persona che scoccia un po' troppo, oppure non, vogliamo dire ti amo, insomma, come si dice in legnanese? Adesso su due piedi mi prendi un po' una battuta dello spettacolo. ma porra donna, te capisci proprio niente, mamma! Ecco, questa è una cosa che magari la figlia dice sempre alla mamma quando la fa arrabbiare, non capisci niente mamma, sei una povera donna, come dire, non capisci quello che volevo dirti o quello che sta succedendo, ecco. Cioè, sono cose, sono frasi per niente volgari, e infatti il nostro pubblico apprezza moltissimo questo fatto che noi facciamo ridere 3 ore, perché il nostro spettacolo dura tantissimo, dura 3 ore, senza un minimo di volgarità, senza fare delle polemiche, è troppo facile, sarebbe far ridere così. Allora, i Legnanesi o Vita Straca, Teatro Ventaglio Smeraldo, per riscoprire la tradizione lombarda. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone@radio24.it. Una buona giornata a tutti da Elisabetta Fiorito.